24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Tiziano Treu Vicentino, sposato con due figli, docente universitario, politico, deputato e senatore, più volte ministro, amico di Marco Biagi, la cui legge, secondo Pietro Ichino, è lo sviluppo della riforma Treu del 97. Nel 2006, insieme al ministro Damiano, è contestato a Venezia durante la presentazione del manifesto riformista sul lavoro. È stato nel partito di Dini, di cui è stato ministro, poi passa al PD, entra nel governo Prodi dal 95 al 98. Dal 1 ottobre del 2014 è commissario dell'INPS. Ecco, professor Treu, ministro di Prodi, poi commissario unico all'INPS. Cos'è più difficile? Commissario all'INPS. Perché? Perché l'INPS è una grande macchina complicata che eroga 20 milioni di pensioni e dobbiamo essere sempre precisi e puntuali. Ecco, da commissario lei gestisce 400 miliardi, cioè praticamente metà della spesa pubblica del paese. In un momento così difficile non le fa paura? Beh, intanto non li gestiamo, li eroghiamo. Vabbè, e li raccogliamo. Insomma. Beh, certo, mi fa paura però il futuro del paese, non l'INPS. Senta, ma che qualità pensa di avere per fare questo, questo ruolo? Ma io ho avuto esperienza soprattutto di regolatore, legislatore, però ho fatto anche amministrazione, Comune di Milano, due ministeri, e questo è una prova ultima. Senta, all'INPS voi gestite tutto, pensioni, maternità, ammortizzatori sociali, eccetera. Ma siete in grado? Ma finora stiamo funzionando, questo è un ente che funziona, abbiamo dei tempi di, anche di erogazione delle pensioni mediamente molto rapidi, qualche ritardo c'è, cioè, bisognerà fare di più. Un treno in orario, diciamo. Siamo un'azienda che funziona. Ah, senta, professor Treu, il governo però aveva promesso di varare subito dopo l'abbandono di Mastrapasqua una nuova governance, non è ancora capitato, perché? Ah, questo bisognerebbe domandarlo al governo e al Parlamento. E quando capiterà, secondo me? Io mi auguro che capiti subito, perché l'INPS è stato in questi anni così sballottato tra commissari temporanei, adesso bisogna dare una stabilità. Ah, che caratteristiche deve avere questa stabilità, secondo lei, nella scelta? Beh, deve essere un governo collegiale fatto da tecnici esperti. Ecco, ma l'intreccio tra politica e sindacati nel definire nuovi assetti dell'INPS, sono stati sempre protagonisti, continuerà a farla da padrona? Ma guardi, il sindacato non gestisce più l'INPS da tempo, è presente nel consiglio di indirizzo di vigilanza e quindi non sarà così. Il problema è che la politica scelga bene i dirigenti e i governanti dell'INPS. Senta, intanto per ora l'uomo forte, l'uomo solo al comando è lei. Ha paura per i conti dell'INPS? No, intanto io presto spero di essere in un collegio di amministratori seri. No, non ho paura per i conti dell'INPS, ho paura per i conti dell'economia italiana. Se l'economia italiana si riprende, l'INPS sta bene. Senta, però c'è chi dice che l'INPS perde 12 miliardi di euro l'anno, è vero? Non è vero. Non è vero? C'è stata questa segnalazione di una mancanza di miliardi, ma perché lo Stato, che è contribuente delle pensioni pubbliche, non ha sempre versato, ma ha ripianato questo cosiddetto buco. Ecco, però, l'ha detto già anche lei un po' prima, se non torna la crescita l'INPS può fallire. No, è l'Italia che può andare male. No, l'INPS, adesso parliamo dell'INPS. L'INPS dovrà aggiustare i propri conti e se continua a non crescere il monte salari, anche le pensioni purtroppo ne soffriranno. Quindi non è l'INPS che ne soffre, saranno i pensionati. Certo, vabbè, naturalmente, ma insomma voi siete l'interrogatore. Senta, lei ha detto i diritti acquisiti non esistono. Beh, mi sembra un segnale bruttissimo. Ma è una frase polemica, perché fino adesso si è pensato che una volta che c'era scritto diritto, forse acquisito qualunque cosa succede. In realtà no, i diritti si devono mantenere, devono essere sostenibili, quindi adesso quel mondo è più complicato. Insomma, non questi tutto... diritti acquisiti non esistono, quindi lo confermo. Non come erano vent'anni fa. Si dovranno ridefinire anche i diritti acquisiti. Senta, può dire una cosa certa però sui conti? Ho già detto, i conti adesso sono in equilibrio, il sistema contributivo regge e naturalmente del futuro dipende da come crescerà l'economia. Senta, col piano 2014-2016 dovrebbero concludersi le incorporazioni dell'INPDAP e dell'EMPALS, è così? Sì? Devono concludersi, si concluderanno? Sì, noi abbiamo questo obiettivo. Ma i risparmi di gestione di cui parlava il governo Monti in seguito a questa incorporazione ci saranno oppure no? Ci sono già state, perché sono almeno due anni che tira la cinghia all'INPS, come è stato richiesto, tutti, come dire, evidenziati i risparmi, e ne faremo anche l'anno prossimo. Ma si parla di 30.000 dipendenti a casa, è vero? 30.000 sono gli attuali dipendenti. Ah, sono cosa vogliamo, allora, andare via? Vogliamo cancellare, cancellare l'INPS? Ci sarà un esodo? C'è un esodo, purtroppo, perché in realtà avremo bisogno di tutti, no, ma non cifre come altre amministrazioni. Ma tipo? No, saranno 1.000-1.500, ma non abbiamo ancora i conti definiti. Senta, ma venderete parte del vostro patrimonio immobiliare, che è immenso, per fare fronte? Il patrimonio va venduto, perché noi non siamo esperti di gestione di abitazioni. Ma è il momento giusto per vendere immobili adesso? Non è che li vendiamo così al mercatino, li daremo, sono tanti. In parte che 30.000 sono già stati venduti negli anni. Nel prossimo futuro abbiamo già concordato anche col Ministro dell'Economia di darli a fondi specializzati immobiliari pubblici. Senta, non è che lo facciamo noi. Senta, professor Teo, quando si parla di pensioni, però il governo ondeggia in questo periodo, c'è pericolo reale di svalutazione delle pensioni? No, che il governo ondeggi è vero, nel senso che abbiamo avuto troppe cosiddette riforme delle pensioni, però quella attuale io credo che sia, almeno nelle grandi linee, stabile. Bisogna ammorbidirla un po' per le persone che sono vicine alla soglia, ma questa, cioè, è cosa vuol dire ammorbidirla un po'? Perché già si è fatto qualche tipo di persona, per esempio adesso si è fatto l'opzione donna, sì, che ha motivi di andare via un po' prima, bisogna fare una specie di uscita facile negli ultimi 2-3 anni, cioè essere elastici nell'uscita. Tutti i paesi europei hanno una qualche forma di flessibilità in uscita. Si parla di flessibilità dovunque, anche lì facciamola. Gli 80 euro di Renzi era giusto darli anche ai pensionati? È giusto, credo che sia l'obiettivo dell'anno prossimo. Senta, con il pacchetto 3 del 97, l'abbiamo detto nella presentazione, il lavoro atipico è entrato nell'ordinamento italiano, si è pentito oppure lo rivendica? Ma guardi, il lavoro atipico esiste in rerum natura, esiste perché l'economia è diventata più frammentata. Mi pento solo di non aver fatto allora subito gli ammortizzatori sociali che aiutassero i precari a cambiare lavoro. Questo è stato colpa di chi ha fondato il governo Prodi nel 98. Senta, la leader della CISL, Anna Maria Furlan, ha detto che la legge Fornero sulla previdenza è la peggiore della storia del paese. Lei è d'accordo? La legge Fornero ha messo un obiettivo giusto di alzare l'età, ma l'ha fatto in modo troppo drastico. Per questo bisogna ammorbidirla. Non si può dire che è la peggiore, si può dire che si può far dipendere. Speriamo di no. Va ammorbidita, come ho detto, ma l'impianto è solido. Senta, il la disoccupazione giovanile, lo sappiamo, sempre più alta, ma il collocamento pubblico non funziona e i centri per l'impiego funzionano poco o nulla. Perché? Funzionano in modo diseguale, come quasi tutte le cose in Italia. Perché sono mal staffati, c'è cioè gente non adeguata, e sono dispersi. La Germania, che ha uno splendido sistema, è un'azienda, il collocamento pubblico, di 100.000 persone, governata come un'azienda. Ecco, ma senta invece cosa si è inventato un giovane di 27 anni, l'abbiamo fatto sentire anche al Ministro del Lavoro, per mettere direttamente in contatto la domanda e l'offerta del lavoro. Jobber Life permette alle persone di trovare il loro lavoro ideale dove desiderano, nel senso che le aziende hanno la possibilità di entrare in un sistema avanzato di ricerca che gli permette di trovare i candidati nella zona geografica in cui li cercano, un po' come avere dei curricula sopra Google Maps, e a loro inviare un annuncio mirato. Il potere sta un po' al candidato, se lo accetta va direttamente in contatto con l'azienda per un colloquio. L'idea è venuta da una problematica, cioè io volevo fare un altro sito, però io non sono un programmatore e quindi mi servivano dei programmatori, ma mi era praticamente impossibile trovarli nel web, era molto molto difficile con i classici annunci, e quindi ho detto: ma è possibile che non esista una piattaforma che mi geolocalizza le competenze che mi servono dove mi servono? E da lì è nato l'embrione dell'idea. Noi abbiamo invertito quello che è il processo classico per la ricerca di lavoro online, che detta molto velocemente funziona così, è sempre stato così: l'utente va online, va sui vari siti di job posting, cioè dove si trovano annunci di lavoro, guarda i vari annunci e si candida. Queste due grosse problematiche: la prima, che i candidati ricevono pochissime risposte da parte delle aziende; dall'altra parte ci sono le aziende che ricevono migliaia di curricula non adatti magari a quello che loro stanno cercando, perché non c'è alcun tipo di filtro. Noi abbiamo invertito il processo, non sono più i candidati a dover cercare gli annunci, ma sono direttamente le aziende a mandare loro annunci mirati. La strada giusta, eh? Idea interessante. Noi abbiamo bisogno però, per fare questo, di avere delle banche dati e una connessione unitaria. Le stiamo costruendo purtroppo lentamente, ma spero di farcela. Senta, lei è d'accordo col ministro Madia che ha vietato i doppi, tripli incarichi nella pubblica amministrazione? Beh, in principio sì. In principio, però il direttore generale suo dell'Inps è diventato invece vicepresidente di Equitalia. Ma è un incarico gratuito che dipende dal fatto che Equitalia è una partecipata dell'Inps. Se in tutte le aziende partecipate i dirigenti dell'una stanno anche nell'altra, gratuitamente. Senta, oggi pensioni, dire pensioni non vuol più dire certezza di nulla, né di calcolo né di età. Sarà sempre così o no? Sempre meno, perché sempre meno certo, perché una volta uno entrava in un posto, stava lì tutta la vita, era facile calcolare la pensione. Adesso si cambia lavoro, ci sono periodi di interruzione e quindi è più difficile calcolarlo. Però se alcuni punti devono essere fermi, per esempio l'età, il sistema contributivo, e a questo punto si può anche ragionare. Si ragiona di cosa? No, si possono fare i conti se ci sono queste cose fondamentali, si possono fare i conti, che sono più complicati, ma si possono fare. L'anticipo del TFR in busta paga è una buona idea? Ma io ho sempre detto che è come avere l'uovo oggi senza la gallina domani. Se è una cosa temporanea si può reggere, altrimenti è pericoloso. Senta, ma cosa si sente di dire a quell'esercito di 40-50enni, 17 anni fa sono stati risuccati nel gorgo del lavoro precario? Dirgli che inventarsi Cococò era la cosa giusta da fare. Ma guardi, questi hanno un problema col lavoro, come dicevo, con la crescita. Non è che i Cococò sono stati inventati perché qualcuno ha scritto la parola su un pezzo di carta. Bisogna che questi si mettano intanto possibilmente a studiare, perché a metà vita si deve riformarsi anche una cultura e una expertise. E poi bisogna che l'economia ci sia, se no, se l'economia è precaria, il lavoro è precario. Ma la proposta di tassare le pensioni più alte per sostenere altre forma di welfare la convince? Guardi, noi abbiamo tante pensioni miserabili purtroppo, e abbiamo troppe ancora pensioni d'oro, come si dice. Beh, è giusto che queste seconde contribuiscano, vediamo come, nella misura, ma è giusto. Ma è vero che in Italia più o meno ci sono 22 milioni di contribuenti, 21 milioni di pensioni da pagare? È vero, grosso modo. È vero, perché noi abbiamo 22 milioni di persone che lavorano, troppo poche. Noi abbiamo poche persone che lavorano. I paesi avanzati hanno quasi il doppio di tasso di occupazione. Questo è il guaio, non le pensioni. Ecco, ma come si fa a intervenire sulla disparità che c'è tra le alte pensioni del sistema retributivo e quelle basse contributive che toccheranno i giovani? Beh, dal 95 è già così, perché dal 95 col sistema contributivo tutti prendono in proporzione a quello che hanno versato. Le sperequazioni di cui lei parla sono frutto purtroppo di un passato che ancora stiamo smaltendo. Senta, ma tutti quelli che non hanno contratti stabili pagano le perdite dei fondi in rosso? No, i fondi delle cosiddette Cococò eccetera sono lì e per ora non sono utilizzati, perché questi sono ancora molto giovani e quando fra 10 anni, 15 anni andranno in pensione dovranno avere i soldi da lì. Cioè, dove sono finiti più di 8 miliardi dei fondi dei Cococò? Ci sono lì fermi? Sono lì, sì, non sono buttati via, tranquillo. Senta, Mastro Pasqua aveva detto che per evitare rivolte, era meglio che i giovani non sapessero nulla delle loro pensioni future. Aveva ragione? Questo è un paradosso. Io penso che bisogna sapere, anche se le notizie non sono sempre le migliori. Noi infatti stiamo lanciando la busta arancione, perché uno sappia, non esattamente, ma almeno grosso modo l'ordine di grandezza delle proprie pensioni. Ecco, ma i giovani appunto quando sapranno quanti contributi hanno? No, quanti contributi hanno lo sanno in tempo reale. E quindi che cosa significa? Noi daremo la possibilità di fare delle simulazioni. Naturalmente, se uno più è vicino all'età di pensione, più precise saranno le simulazioni, perché meno variabili ci saranno. Ma non è che quegli 8 miliardi dei Cococò stanno finanziando la gestione in passivo di artigiani, coltivatori di diretti dipendenti pubblici? Ma, beh, queste sono per ora partite di giro, però molti di questi fondi in passivo si stanno equilibrando, perché come ho detto ormai il sistema contributivo è in equilibrio. Restano molti fondi speciali, pensioni cosiddette d'oro, che bisogna abolire il più presto. Abolire per legge? Sì, beh, già sono state, come dire, plafonate, molte sono state del tutto abolite, alcune sono ancora lì che resistono perché ci sono dietro interessi, insomma, forti, diciamo. Ma a che punto siamo con la vicenda degli esodati? È un tormentone. Gli esodati ormai che sono stati presi in carico sono 160.000. Secondo noi sono tutti quelli che ragionevolmente potevano pensare di andare in pensione con le vecchie regole. È chiaro che ci sono ancora delle persone anziane disoccupate, ma non esodati. L'esodato è uno che aveva fatto i conti, aveva fatto degli accordi, vado in pensione fra tre anni. Quindi lei dice che gli esodati non sono più un problema? No, in senso tecnico non ci sono più. Certo, il problema è il 55enne disoccupato, ma questo è un altro problema, bisogna trattarlo come tale, dandogli delle offerte, dandogli degli ammortizzatori se non le trova, mandandolo a studiare se necessario, come tutti i problemi di disoccupazione. Senta, ma non dandogli la pensione, che è una cosa assurda. Senta, professor Treu, le casse di previdenza hanno utilizzato bene la loro autonomia? Alcune bene, non moltissime, molte male, perché hanno pensato ai vecchi professionisti, perché sono spesso casse vecchie, e poco ai giovani futuri professionisti che pagano pochi contributi e rischiano di avere poche pensioni. Mi dica uno male, peggio di tutti. Boh, tra quelli, io sono nella cassa degli avvocati, non è tra le migliori. Non diciamo. È tra le migliori, e la migliore invece? Alcune, per esempio i commercialisti hanno già messo il metodo contributivo molti anni fa e stanno andando meglio delle altre. Senta, professor Treu, le faccio un'ultima domanda. Gino Giugni, Massimo D'Antona, Marco Biagi, Enzo Tarantelli. L'Italia è l'unico paese al mondo dove occuparsi di diritto del lavoro può costare la vita. Perché? È una cosa quasi incomprensibile, anzi razionalmente incomprensibile. Purtroppo il nostro tasso di ideologia è altissimo e l'odio crea addirittura il crimine in questi casi, alimentato da una cattiva ideologia. E tutti i colleghi stranieri che io frequento mi dicono anche loro, è incomprensibile. Lei ha mai avuto paura? No? Sì, io ho avuto paura soprattutto dopo che hanno ucciso Tarantelli, perché io ero vicino a lui in quel periodo, e poi anche qualche altra volta, e infatti sono sotto scorta da molti anni. Si voterà in primavera? Domanda impossibile. Io spero di no, ma non lo so. Grazie. Mix 24. Allora Mario, titolo per Treu? Insomma, l'intervista, Treu è un esperto, quindi le risposte erano puntuali. Titolo: l'equilibrio instabile. Pietrangelo? Ti aiuto? Sì. Ammortizzare, mobilitare, co-co-co-chizzare. Co-co-co-chizzare. Capita che la sera smotti al mattino e quindi si anticipa l'ebbrezza degli spensierati nell'affaccendarsi della giornata che inizi e procura un'aggiunta di buon umore e si passa dal colore mitigato dalla nebbia, che è quell'atmosfera anni 50 propria della metropolitana, al rigore bianco e nero di un'istantanea pronta a diventare ricordo. E quindi appollaiati sui sedili della metropolitana è tutto con questa musica, ecco, un contrabbandare di sorrisi. Con la tua bolla, va? Ma, su. Sta stamattina abbiamo cominciato a passo di danza. Questo era Bruno Mars, un bel pezzo. Bruno? Bruno Mars. La Tardelli non è d'accordo che sia un bel pezzo, in regia fa. Senti, vabbè, sai un po' che esistono le isole misteriose, le isole che non esistono in realtà, quindi l'isola che non c'è, Neverland. E esistono anche i tesori che non ci sono, dunque. Qua ho fatto un giochino, vabbè. Che giro. Vabbè, insomma, è più o meno come il taglio delle superpessioni. Non l'ho fatto apposta, devo dire, ma Treo ha toccato un argomento che avevamo messo nella nostra scaletta di oggi. Insomma, io lo dico sempre, bisogna evitare la demagogia, la politica deve essere molto seria in queste cose, anche perché ci sono leggi, regole, cavilli, e in ogni caso, prima di scatenare una guerra, i generali insegnano ai grandi strateghi che devi essere sicuro di vincerla, perché se no la perdi. E sulle pensioni d'oro dei dipendenti della Camera e del Parlamento, insomma, c'è un po' di, come dire, non andrà proprio benissimo, io credo, perché hanno urlato, le cancelliamo, le tagliamo, così via. Alla fine ci sono 300 ricorsi, la parola passa alla Consulta, cioè alla Corte Costituzionale, e la norma somiglia molto, molto, molto a provvedimenti che sono già stati bocciati. Quindi, mamma mia, attenzione. Non capita niente. No, il paradosso è che è facile toccare le minime, accidenti, e mai le massime, è una cosa incredibile. Salamino! 7 spose per 7 fratelli, però io vorrei dire che ci saranno 7 virtù contro i 7 vizi capitali, perché sono in grado di anticipare, caro Giovanni, quale sarà la prossima trasmissione di Roberto Benigni, adesso che funesterà il lunedì, martedì prossimo, con i 10 comandamenti. E sarà appunto quella sui 7 vizi capitali, che avranno però 7 virtù, di cui io già dispongo argomenti e scaletta. E vorrei bruciare quindi questa notizia, dandola ai nostri ascoltatori. Anticipiamo già con il primo dei vizi, no, con la prima virtù. Le voglio dire che queste cose ci sono già tutte nella Costituzione. Oh, ecco, avete riconosciuto Serena Dandini. La prima delle virtù sarà quella di chiamare Buzzi, presidente della cooperativa 29 giugno, e fare finanziare un nuovo spettacolo di Serena Dandini. Subito alla seconda virtù. Ecco, riabilitare il KGB, che sapeva come sbianchettare le foto, e cancellare così tutti gli scatti di Ignazio Marino con il Buzzi suddetto. Terza virtù. Lo riconoscete questo rombo? È quello della... la famosa panda della Magliana, la panda rossa di Ignazio Marino, perché tra le virtù i cittadini devono volontariamente pagare il pass per l'ingresso nella ZTL Ignazio Marino e poi trovare un parcheggio alla panda. Quarta virtù! Ecco, sì, la bicicletta, la demagogia arcobaleno, come scrive oggi sul Foglio Mario Secchi. Accattatevi un foglio. La demagogia arcobaleno è virtù, e quindi il sellino della bicicletta di Ignazio Marino sarà corredato da un guento comunque lenitivo. Comunque lenitivo. Quinta virtù. Sta base ci serve per far che? Per piacere quello che se vogliamo piacere a tutti. Che se vogliamo piacere a tutti? Roma. Roma. E come cazzo sappiamo Roma? Roma è grande. E noi siamo piccoli? Sappiamo che è la droga. E poi con tutto il resto. Le puttane, le estorsioni, il gioco. Il gioco è di Bernardino Scala. Fino a ieri. Ecco, lettura obbligatoria di De Cataldo, l'autore appunto di Romanzo Criminale, ma anche di Cantone, di Sabelli, di tutti. Questi non sono scrittori. Che non sono scrittori, però, però contribuiscono al racconto popolare di questi giorni. E poi, ecco, sesta virtù, ascoltate attentamente, mandate a memoria, perché questo è un Benigni particolare. Se nasce un mongoloide è una cosa molto trista. Ma la cosa più schifosa è se nasce un fascista. Maledetta l'ora, il giorno e il secondo in cui due merdaioli ti misero in mondo. Maledetta l'ora, il giorno e l'annata che la tua mamma ti dette la sua prima poppata. Ecco, sarebbe proprio da mandarlo continuamente. Moderato, però. Sì, perché contribuisce alla pacificazione, sì. Mette fine, diciamo, alle ferite della guerra, sì, civile. Assolutamente. Ma questo serve a introdurre la sesta virtù. Ti che segnalo è quella... che Minori ha tirato fuori i ceci. I ceci? No, non è che è il Papa Benigni, è compare del Papa, ma non è il Papa. Allora, individuare quindi nel proprio quartiere, se residenti a Roma, almeno quattro componenti dei NAR, uno per città, invece in tutto il resto del territorio italiano. E infine, la settima virtù la annunciamo nel finale, perché la dico prima, che resta sempre il proposito di salvaguardia della democrazia e quindi affidarsi ancora una volta all'unica possibilità di carriera che è trama nera. Trama nera, trama nera, sol con te si fa carriera. Trama nera, trama nera, tu dai la felicità. Trama nera, trama nera, carriera è difficile. Ci mancava la trama nera. Senti Sara, tiraci sul morale con la posta del cuore, per favore. Ho conosciuto mio marito poco più di un anno fa. 8 mesi di passione e voilà, mi sono ritrovata all'altare. Durante il viaggio di nozze mi beavo, piena di orgoglio per quell'uomo intelligente, benestante, eppure belloccio, che potevo presentare come mio marito. Io, sua moglie. Ah, ci sguazzavo a ripeterlo. E poi non la smettevamo mai di parlare. Complici e confidenti, sempre curiosi, affamati l'uno dell'altra. Ma appena tornati a casa è calato il silenzio. Torna la sera, si toglie le scarpe, sprofonda sul divano, accende la TV e chiede Atono: che si mangia? Sono bastati 3 mesi perché l'uomo brillante che avevo sposato si trasformasse in un panzone senza fantasia, perennemente sbracato davanti a qualche partita. Una noia. Che poi la sua squadra perde sempre, gli gira anche male. Viviamo in una cortese routine la cui massima variazione è rappresentata dal menù. 3 mesi sembrano 30 anni. 3 decenni di noia. Ma una noia così noiosa che mi annoio anche a provarla. E tutte le sere, ascoltando il suo respiro, regolare pure quello, mi addormento con un pensiero. È questa la mia vita da adesso in poi? Pietrangelo, lo sai come si firma l'autrice di questa lettera? No. Bovary 79. Ma da voto. Ma somiglia... No, la prima. Ma somiglia veramente alla Emma di Flaubert? Somiglia veramente alla Emma di Flaubert. Allora, intanto mettetemi la musica. Scusa, io voglio quella serenata bella di divorzio all'italiana, quella di Pietro Germi. C'è, arriva, eccola, la voglio apposta questa musica, perché secondo me, signora Emma, lei non ce la racconta giusta. No, sono d'accordo. Ha scritto questa lettera, l'ha mandata a noi perché voleva dare un conforto a se stessa e giustificarsi per quello che sicuramente Vossia ha già fatto. Io già me lo immagino dietro quegli scuri, con quell'atmosfera, quell'attesa, quel trepidare. Sicuramente l'ha fatto già cornuto. Quindi che ci racconta? Quello già. Io, cara Bovary, non so. Ma una casa firma che... Bovary, scusa, già ha dichiarato qual è la sua intenzione, certo. Se non no, quello che ha già fatto. Ah, dici che apposta ha scritto. Ma scusa, quello che si dice Bovary, alla prossima si firma Messalina. Cara Bovary, ti rispondo io. Magari non l'hai notato perché la squadra di tuo marito perde sempre, ma forse se capita perché manca il regista in quella squadra, cioè il numero 10, il giocatore che con la sua fantasia e il suo istinto trasforma anche un obbrobrio in un capolavoro. Ecco Bovary, prova a fare il regista del tuo matrimonio, riscrivi un po' i dialoghi, cambia le location, insomma... Non essere pirla, sì, Pirlo! Forza Juve, almeno quello! Oh, c'hai ancora una bolla, sì, Mario? Me la do, vai con Prince. Questa Questo è un pezzo meraviglioso, Diamonds and Pearls, da un album leggendario di Prince del 91. Se lo riascoltate tutto ci sono tutte le sonorità di adesso, quindi non era già stato fatto tutto all'epoca. Per parlare di diamanti o ricchezze, Jack Ma, che è il fondatore di Alibaba, che insomma è stata quotata con grande successo a Wall Street, ha strappato lo scettro di uomo più ricco del mondo a Li Ka-shing, anzi di uomo più ricco dell'Asia, scusate, e ha 28.6 miliardi di dollari di patrimonio. Volevo dire che Jack Ma ha iniziato in un suo appartamento nel 1999 la sua avventura. Faceva l'insegnante di inglese. La mattina del 12 dicembre del 1901 Guglielmo Marconi invia il primo segnale radio transoceanico. La radio, il radar, la televisione, il satellite, la telefonia mobile. Dietro tutta questa tecnologia ci sono le straordinarie intuizioni di Guglielmo Marconi. Oggi, con Marina Milone, raccontiamo la sua vita avventurosa, un pioniere sempre proiettato verso il futuro. Mix 24. La storia. Non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare. Tutto quello che è avvenuto in questi 100 anni sul terreno della comunicazione è figlio, in qualche modo, di Marconi. Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Armstrong disse: senza Marconi noi non saremmo mai potuti atterrare sulla Luna. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. La radio, il radar, la televisione, il satellite, la telefonia mobile, una tecnologia che noi tutti oggi diamo quasi per scontata e su cui si basa gran parte del mondo moderno, ha dietro di sé la straordinaria intuizione di un italiano, Guglielmo Marconi, un pioniere, un uomo dalla vita avventurosa, sempre proiettato verso il futuro, un po' per caso, un po' perché spinto dal desiderio di non fermarsi mai. Il 9 dicembre del 1909 a Stoccolma l'Accademia Reale Svedese gli ha assegnato il premio Nobel per la fisica, un riconoscimento che arriva dopo anni di ricerche ma che proprio in quell'anno premia l'eccezionale importanza della grande scoperta, la telegrafia senza fili. Oggi su Mix 24 raccontiamo la storia di un grande italiano, Guglielmo Marconi. Nord Atlantico, 23 gennaio 1909. Avvolto nella nebbia, il transatlantico Republic naviga a tutto vapore al largo del New England. D'improvviso, a 27 miglia dal faro di Nantucket, il piroscafo americano viene speronato da un battello italiano, il Florida. Quando ormai è chiaro che il destino del Republic è segnato, l'operatore radio Jack Binns resta al suo posto, al telegrafo. Per oltre 14 ore, mentre il Republic sta lentamente affondando, Binns continua a trasmettere un disperato SOS. Lo raccoglie l'operatore del piroscafo Baltic. Il comandante ordina di invertire la rotta e di puntare sul luogo del naufragio. Il marconista, il radiooperatore, è stato bravissimo perché è riuscito a chiamare aiuto e ha salvato tutti l'equipaggio, i passeggeri. Era la voce di Elettra Marconi, figlia dello scienziato. Grazie all'invenzione di Guglielmo Marconi, i 1700 passeggeri vengono tratti in salvo. All'arrivo in porto a New York, alla folla riconoscente che lo porta in trionfo, Binns, un impiegato della Marconi Company, continua a ripetere: «Ho fatto solo il mio dovere». All'indomani dell'eroico salvataggio dei passeggeri del Republic, l'opinione pubblica di tutto il mondo saluta un nuovo eroe. È il marconista, l'operatore del radiotelegrafo brevettato da Guglielmo Marconi. Per l'inventore italiano naturalmente è un trionfo. Di lì a poco il Nobel a Stoccolma sarà la sua consacrazione. E quel premio Nobel che il Marconi riceve a soli 35 anni viene da lontano. È il frutto di anni di faticose ricerche, di esperimenti condotti a dispetto dell'invidia del mondo accademico, della concorrenza agguerrita di grandi compagnie internazionali e dell'indifferenza delle istituzioni italiane. Guglielmo Marconi nasce a Bologna il 25 aprile 1874, ultimo genito di Giuseppe, un ricco uomo di affari emiliano, abile ed ambizioso. il ricordo di due persone di famiglia, Elettra, la figlia di Guglielmo Marconi, e Guglielmo Giovanelli, figlio di Elettra. Giuseppe è un uomo non solo imprenditore, ma anche un romantico, un passionale, tipicamente emiliano. Aveva conoscenze con le banche e in casa proprio di questi banchieri Renoli ha incontrato Annie Jameson, che era questa ragazza irlandese molto bella e aveva una bellissima voce. Era stata mandata dai genitori che erano proprietari del whisky Jameson. Era gente molto potente in Irlanda, una famiglia antica, e hanno incominciato a viaggiare sia in Inghilterra che in Irlanda. Erano persone molto moderne per quell'epoca. Quando Guglielmo è ancora piccolo, la famiglia Marconi si trasferisce a Pontecchio, sulle colline vicino Bologna, in una villa di campagna dove il padre Giuseppe ha grandi tenute agricole. Barbara Valotti è direttore del Museo Marconi di Pontecchio. Sappiamo per certo, e lo sappiamo dai suoi documenti, dai suoi primi quaderni, che il ragazzino Marconi, probabilmente a 12-13 anni, inizia ad appassionarsi di esperimenti elettrici. Precocissimo nei suoi interessi e nella sua passione per la fisica, Marconi trascorre la sua infanzia viaggiando per tutta l'Europa. Non ha modo, perciò, di seguire studi regolari ed egli resterà sempre, fondamentalmente, un autodidatta. E qui c'è una fondamentale intuizione di mamma Annie Jameson, vale a dire lo manda a lezioni private non dove era più debole, per esempio non pronunciava benissimo l'italiano, lo manda a lezioni private là dove era forte. È proprio la madre, Annie Jameson, è la persona che di più crede in lui. Spirito anticonformista, capisce che per quel ragazzo le regole dell'alta borghesia sarebbero solo una gabbia. Decide allora di non ostacolarlo, di lasciarlo libero di coltivare le sue inclinazioni. E Marconi, appassionato lettore di riviste elettriche, si tiene costantemente aggiornato sulle ultime scoperte in campo elettromagnetico. L'argomento scientifico più di moda a fine Ottocento. Per Marconi la vera scoperta della fisica sperimentale avviene nel 1890 a Livorno, quando la madre lo manda a studiare da un professore di liceo, Vincenzo Rosa. A raccontarcelo Maurizio Bigazzi, a lungo consulente del Museo Marconi. Quando incontrò Rosa era pieno di quesiti, tanto che lo esasperava, ma Rosa stava al gioco perché aveva preso in simpatia questo ragazzo. Capiva che, disse sempre, quel ragazzo che venne da me non per una tesi di laurea, ma per amore della fisica. Era un'anima in pena per l'elettrologia e a lui tutto diedi. Grazie a Vincenzo Rosa, Marconi impara a saldare fili, preparare pile, ricaricare accumulatori e a conoscere i circuiti elettrici. Pochi anni dopo, all'Università di Bologna, si entusiasma per l'oscillatore di Hertz, uno strumento che il fisico Augusto Righi fa scintillare in aula per spiegare la natura delle onde elettromagnetiche. Righi continuava a dirgli: studia prima, perché la base ci vuole. E lui della base, quando il papà o anche gli amici, i parenti, la mamma gli dicevano tu devi seguire un corso di studi regolari, e lui si metteva di fronte all'idea di dover studiare il greco, il latino, la filosofia e materie che non gli interessava per niente, la letteratura italiana, lui voleva fare gli esperimenti. Era Francesco Cremona, studioso di Marconi. Ricco, di ottima famiglia, pieno di talento, Guglielmo Marconi non viene ammesso né all'Accademia Navale né all'Università di Bologna. 4 anni più tardi, nel 1894, di fronte al panorama delle Alpi biellesi, Marconi ha l'intuizione che cambierà per sempre la sua vita e il XX secolo. È un'idea rivoluzionaria a cui finora non ha mai pensato nessuno. Utilizzare le onde elettromagnetiche come mezzo per comunicare. A raccontarlo ancora la figlia Elettra e Francesco Cremona. E guardando il panorama di queste montagne che si vede queste paesaggio delle onde e ha pensato alle sue onde e in quel momento ha avuto la certezza che sarebbe riuscito. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Lo stesso Marconi, anni dopo, in una sua conferenza lo dice: non capisco perché professori di altissimo livello spiegavano agli studenti l'esistenza delle onde elettromagnetiche, la trasmissione, la propagazione e la ricezione, e nessuno ha mai pensato di utilizzare questi due apparecchi per la trasmissione di un messaggio. Marconi ha 23 anni, è un ragazzo, è quasi un dilettante, ma è geniale, riesce a scoprirlo per primo. Riesce a realizzarlo per primo. Questa è la sua grandezza. Era Franco Monteleone, storico della radio, un talento dunque che ha la possibilità di sperimentare e che a soli 20 anni intuisce quello che i grandi professori non riescono a immaginare, e cioè che le onde elettromagnetiche possono veicolare dei messaggi senza bisogno di fili. È l'alba di un nuovo secolo.